Martedì 10 dicembre, ben ritrovate e ben ritrovate. Comincia a Note Cose Città. Questa è naturalmente Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Fa un freddo cane e tu sei venuto col chiodo. Vabbè, ammazzate col chiodo, figo. Vabbè, ma erano quelli che prendevi a Via Nazionale, che entravi con l'accendino per vedere se era vera pelle. No, quella è Via Nazionale. Porta Cortese, quella è Via Nazionale. Ammazza Porta Cortese. Vabbè. Il 06 49 17 50, il numero di telefono, www.ondarossa.info, e vi ricordo anche di sottoscrivere per Radio Onda Rossa e di acquistare anche le nuove scarceranda. Noi per la prossima oretta siamo qua, se la volete venire a prendere, altrimenti in tutti i luoghi che in cui la radio le sta presentando. Oh, Didi Ramon. Aspetta. No, scusa. Dimmi. Didi Ramon. Sì. Mi metti in mezzo, non mi fai salutare, ciao a tutti, ciao a tutti. Vai. Non mi fai rimane anche spieghi, a parte che non uso vera pelle. Comunque sì, il chiodo era, insomma, volevo scegliere un look adeguato alla puntata di oggi, ecco. Vabbè, no, no, infatti ti vedo. Perché lanci il sasso, nascondi la mano. Vabbè, ma adesso si capiva, insomma, dagli tempo, falla così macerare. Didi Ramon, d'andiamo. Andiamo a New York, nel 10 dicembre 1973, perché oggi, 46 anni fa, apriva un locale storico, un locale che avrebbe dato i natali a quello che poi sarebbe stato chiamato punk, quantomeno diede i natali al punk americano, il locale, il CBGB. E quindi oggi che chiameremo qui ogni tanto KGB, perché proprio viene proprio naturale. Insomma, saranno tante storie, tanti protagonisti, tanta bella musica, e cerchiamo di fare il massimo. Senti, io farei però un piccolo prologo, un attimo, per cercare di capire un attimo anche il clima in cui il CBGB ha iniziato la sua attività. C'è una descrizione della New York di quegli anni e della sua scena musicale che mi è piaciuta, non so se posso parlare anche a nome tuo. Vai, parla anche a nome mio. Dice così: hai facoltà. Ok, molto si è scritto sullo squallore e la disperazione che negli anni 70 regnavano a New York. La città era allo sbando e in bancarotta. Il crimine dilagava, l'idealismo visionario degli anni 60 era sostanzialmente morto. Un quadro piuttosto scoraggiante per un ragazzino di quegli anni. Troppo giovani per aver partecipato al fantasmagorico party degli anni 60, dovevamo accontentarci degli avanzi. L'erba era più cara, l'LSD meno puro. Anche la musica sembrava in declino. Jimmy, Janis e Jim erano morti. Beatles e Velvet Underground si erano sciolti. Sly and the Family Stones erano persi tra montagne di cocaina. I Grateful Dead avevano seppellito Ron McKiernan, Dylan si era fatto crescere la barba e si era trasferito a Los Angeles. L'R&B perdeva terreno, spodestato da un soul furbo e da un funk all'acqua di rose, mentre jazz e musica classica erano ormai irrilevanti. Il primo si perdeva in Lagne Fusion post Coltrane e la seconda nei glaciali vicoli ciechi della serialità. E sono proprio le condizioni peggiori, e concludiamo, talvolta, a produrre la bellezza più intensa e i cambiamenti più radicali. La nostra storia inizia il 3 agosto 1973, siamo a 240 di Mercer Street, tra la Terza e la Bleecker, ovvero al Broadway Central Hotel. Una volta era un prestigioso albergo, all'epoca del nostro racconto già un hotel di bassa categoria, che ospitava all'interno il Mercer Art Center. Era un luogo dove si svolgevano spettacoli teatrali e concerti rock. Intorno alle 5 di pomeriggio il Broadway Central Hotel crolla, 4 morti e moltissimi feriti il bilancio. Se avete visto la serie Vinyl, una delle ultime scene, non so Fabio se è l'ultima, non mi ricordo, credo sia l'ultima, proprio l'ultima scena, cioè il protagonista che esce proprio dal Broadway Central Hotel e alle sue spalle crolla poi il palazzo. Inizialmente si pensò che il motivo fu il palazzo fatiscente, si scoprì in seguito che la causa fu una rimozione di una colonna portante durante un restauro. Questo evento, lo vedremo, sarà importante per il successo del CBGB, perché in quel momento, ripeto, siamo ad agosto del 73, il rock aveva perso la sua casa e c'era bisogno di trovare un altro luogo che potesse ospitarlo, e indovinate un po' quale sarà. Un omaggio però lo vogliamo fare al Mercer Art Center con uno dei gruppi che insieme ai New York Dolls si esibì lì tante volte, i Suicide. Alan Vega alla voce e Martin Rev, tastiere e drum machine, andranno poi a esibirsi anche al CBGB e descriveranno per primi sul loro flyer la loro musica come punk music. La canzone che abbiamo scelto è tratta dal loro magnifico primo album, si chiama Ghost Rider, e loro sono Suicide. psycho hero. He's looking so cute. Sneaking round and round, round in a blue jumpsuit. E allora, molto punk, molto punk. Infatti molto punk. Un casino dietro l'altro, facciamola ripartire, va, Suicide. Ghost Rider, motorcycle hero. He's looking so cute. Sneaking round and round, round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Baby, baby, baby, baby, he's a blazing away. Stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a screaming the truth. America, America is killing its youth. Bee bee bee bee bee bee, he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America's giving its youth. Vai. Che inizio bancale, eh? Madonna, panchissimo. Fischi. Tutto. Canzoni che ripartono. Comunque, per chi si fosse messo in, in ascolto ora, abbiamo appena ascoltato i Suicide Ghost Rider e stiamo nella puntata di oggi di Note Cose Città dedicata al CPGB. Oggi, 43 anni fa, il 10 dicembre del 1973, in un terrificante spazio sotto il Palace Hotel, un albergo di infimo ordine al 315 di Bowery Street, nell'omonimo quartiere di Bowery, poi ne parleremo dopo, Manhattan, al confine da Lower East Side, Chinatown e Little Italy, aprì il CBGB and OMFUG. Il CBGB stava per Country Blues, Country Bluegrass e Blues. L'altro acronimo invece è Other Music for Uplifting Gourmandizers, se pronuncia così, perdonatemi, sì, sì, letteralmente altra musica per briosi ghiottoni. Il proprietario, il simpaticone che ha fatto questo già nome un po' complicato, era un ebreo russo di nome Illy Crystal, cantante, violinista ed ex marine con un bel curriculum in fatto di locali. Infatti nel 1959 venne assunto come direttore artistico del Village Vanguard, uno degli storici jazz club della Grande Mela. Poi aprì un suo locale, Lillis, sulla tredicesima, che per tutti gli anni 60 aveva ospitato artisti folk e blues, un locale che non regge allo sgretolamento, diciamo così, della scena folk. Quindi Crystal chiude bottega e nell'autunno del 73. Nel frattempo, previdente evidentemente, aveva aperto un altro locale, cioè aveva rilevato un bar sulla Bowery, quello di cui stiamo parlando oggi, nel 69. David Bowery. Che però era semplicemente una birreria, neanche d'ascolto. Adesso questo locale diventa, prende tutta la sua attenzione e lo ribattezza, appunto, non dico più tutto il nome per esteso, CBGB. Se Illy Crystal perse presto il suo interesse per il country, blues, grass e blues, il merito è in gran parte di una band che risponde al nome di Television. Infatti i Television erano di fatto gli ex Neon Boys, un trio newyorkese dei primi anni 70, con in più una new entry di livello che risponde al nome di Richard Lloyd, un chitarrista di Pittsburgh che vive insieme a un altro personaggio chiave di questa storia. Non potremo parlare di tutti perché prenderebbe troppo tempo. Comunque questo personaggio è Terry York. Terry York era direttore di una libreria ed era un sodale di Andy Warhol. Anche lui, come Warhol con i Velvet, era in cerca di una banda a cui fare da mentore. Appunto, come potete immaginare, York scelse i Television, di cui diventa il loro manager. I Television, oltre al già citato Lloyd, comprendevano Tom Verlaine alla voce e chitarra, Richard L al basso e Billy Fick alla batteria. Per come ti incrociano le storie, è un po' curioso come ti incrociano la storia di Television con quella del locale di Illy Crystal. Un pomeriggio, e così raccontano le biografie, e Lloyd e Verlaine passeggiano per Bowery, passano davanti al 315, l'indirizzo del locale, e passano proprio mentre Crystal stava montando una nuova tettoia. Quindi i due attaccano un bottone e gli chiedono se potevano suonare nel suo club. Lui scende dalla scala, gli offre da bere e chiede che genere musicale suonassero i due. Loro dissero: facciamo rock. E quando lui risponde subito: guardate, non ci interessa. Gli spiega il significato dell'acronimo, quindi non era né country né bluegrass né blues, quindi amori miei, che volete da me? Loro provano a arrampicarsi sugli specchi, provano a convincerlo che nella loro musica in fondo un po' di country e un po' di blues si sente, anche se siamo piuttosto originali. Ovviamente non lo convincono, però non si arrendono, non so perché ispirati da quel locale, e Lloyd torna con il manager, con York, che riesce a convincere Illy a far suonare i Television una domenica. E come li convince? La domenica è il giorno di minor afflusso nel locale, e lui dice che avrebbe portato, lui il manager, che avrebbe portato un sacco di amici che bevono tanto, e che se l'incasso fosse stato inferiore alla serata della settimana in cui aveva avuto più riscontro economico, lui avrebbe offerto la bere a tutti fino ad arrivare a quella quota lì. Quindi Crystal non vede motivi per non accettare, accetta, e il 31 marzo del 1974 i Television fecero il loro debutto al CBGB. La band chiamò tutti gli amici che riuscì a raccogliere, però comunque York fu costretto a pagare un sacco di birre. La performance, questo dicono le cronache, fu molto grezza ma molto intensa. Nella scaletta recuperano pezzi dei Neon Boys, il gruppo da cui provenivano, ma suonarono anche nel set nuove canzoni, tra queste Venus, che incontreremo tra poco, e Blank Generation. Illy, che qualche soldo l'aveva ricimolato comunque, pur trovando i Television terribili, si convinse a farli suonare anche la domenica successiva, quella ancora dopo, e poi di fatto i Television diventano la resident band di tutte le domeniche di quella stagione del locale. La prima recensione che ottenne il locale, e in questo caso i Television, e di un giornale che si chiamava il So Weekly News, che scrisse, tra le altre cose: la cosa grandiosa di questa band è che non hanno alcun valore musicale o sociale, e lo sanno benissimo anche loro. Diciamo che non era granché portato il recensore dell'articolo. Poche settimane dopo, la domenica di Pasqua, Patti Smith, insieme a una sua amica, stava tornando dalla prima newyorkese di uno spettacolo teatrale che si chiamava Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. Tornando delusa dallo spettacolo, a Patti Smith venne l'idea di andare a vedere in quel locale sulla Bowery il nuovo gruppo del suo amico Richard L. Quindi finì tra il pubblico, poi anche lui e tante altre cose, rimase molto, quindi andò al concerto, rimase molto colpita da Television, e in particolare rimase colpita dalla folgorata, diciamo così, da Tom Verlaine. E Patti Smith divenne, e poi vedremo che peso avrà la sua presenza, divenne una cliente fissa di tutte le domeniche al CBGB, cioè insomma andava a vedere quella che sarebbe diventata la sua band preferita. E visto che scriveva e scrive anche di musica, scrive anche parecchio, parecchio bene, scrisse due volte di loro, una volta sullo stesso giornale della prima recensione sul suo News, e ovviamente parlandone bene, e poi riuscì a dedicare al gruppo uno speciale di due pagine su un giornale all'epoca, una testata musicale all'epoca importante, che si chiamava Rock Sheen. E nonostante fossero diventati in breve una band di culto, per il primo contratto discografico le Television dovettero aspettare a lungo. Arrivò infatti solamente a luglio del 1976, quando firmarono per la Elektra Records. A quel punto ci torneremo, aveva già lasciato il gruppo e per essere sostituito da Fred Smith. La settimana precedente la firma, Television divisero il palco del locale per 4 serate con un altro gruppo che avrebbe fatto a lungo parlare di sé, che i Talking Heads, anche loro li incontreremo. Marquis Moon, uno dei più clamorosi esordi della storia del rock, uscì l'8 febbraio del 1977. Dopo l'uscita dell'album e un tour in un'Inghilterra nel pieno dell'esplosione punk, i Television tornano come trionfatori al CBGB che ormai è frequentato anche dai VIP, e tant'è che una sera post tour in Inghilterra al CBGB, tra il pubblico c'è tra gli altri Paul Simon e Peter Gabriel, e proprio l'ex Genesis a fine concerto è talmente entusiasta che porta nel camerino, che poi era proprio un bugigattolo ricavato dietro al palco, porta una bottiglia, una? Bugigattolo, non so, per dire, era proprio, okay. Diciamo, non era proprio il camerino quello che ti aspetti di un concerto rock, porta una bottiglia di champagne e li invita ad aprire il suo primo tour americano come solista, aveva lasciato da pochi Genesis. L'accoppiata è stranissima, immaginare un gruppo art punk, diciamo così, come Television, aprire per uno dei guru del progressive, sarà stato davvero curioso. Comunque noi adesso ci ascoltiamo la prima grandissima canzone che apre Marquis Moon, Venus, Television. The world was something. Già fatto. Tutto a posto. Ok. Ma se i television rappresentano. Se i television rappresentano il gruppo che, diciamo così, ha aperto la strada al CBGB, ha indicato la strada a Crystal, il gruppo che forse più di chiunque altro rappresenta il locale e più in generale rappresenta la scena underground newyorkese della seconda metà degli anni 70, sono i Ramones. E per capire il peso che hanno avuto nella città e nel quartiere i Ramones, dal 30 novembre del 2003, e poco distante dal CBGB, è stata ufficialmente nominata dalla municipalità di New York e Joey Ramone Place, una piazza appunto poco distante dal locale che poi lo vedremo oggi, non lo racconteremo oggi, non esiste più. Ma facciamo un passo indietro: il 30 marzo del 1974, cioè la sera prima del debutto di television al CBGB, i Ramones avevano a loro volta debuttato, però non avevano debuttato in un vero e proprio locale, avevano debuttato al Performance Studio, era la sala prove, lo studio di registrazione di Tommy Herderly, che ancora non fa parte dei Ramon, lo diventerà a breve. Questo è lo spazio in cui loro provano da gennaio, e quindi senza Tommy alla batteria, in questo caso i Ramones si esibiscono come trio, Didi al basso e alla voce, Johnny alla chitarra e Joey ancora alla batteria e alla seconda voce. Nelle settimane successive Tommy diventa il manager della band ed è lui ad avere la straordinaria intuizione di spostare, insomma, di rimodulare il gruppo, cioè di spostare di fatto Joey alla voce. Era colpitissimo dal suo accento molto forte del Queens, molto strascicato, e anche dalla sua figura fisica, cioè lo immaginava e diciamo ci ha preso come frontman del gruppo più adatto di D. Quindi a questo punto, avendo abbandonato Joey la chitarra e la batteria, cercano un batterista e cominciano una serie di audizioni. E sembra che a queste audizioni si siano presentate una fila interminabile di emuli di Bonham, di John Bonham, che certo non era la figura di batterista che adatta ai Ramones. Quindi Herderly si stufa e decide che il batterista l'avrebbe fatto lui stesso. Il piccolo particolare in perfetto stile punk è che lui non aveva mai suonato prima la batteria, ma questo, diciamo, non fa neanche notizia. Quindi seguiranno altre prove, quantomeno imparerà a tenere un po' il tempo. E dopodiché i Ramones, tra parentesi, il nome Ramones, per chi non lo sapesse, deriva da Paul McCartney. Infatti Paul Ramone era il pseudonimo che McCartney usava durante i primi tour dei Beatles, quando doveva prenotare, doveva, insomma, per distrarre le folle che già erano numerose, sì, insomma, per evitare stalker o quantomeno per provare a evitare rogne. Sai che io quando sono stato a Cuba ho mangiato in un ristorante che aveva appeso al muro il piatto dove aveva mangiato con McCartney. Il tuo dopo ce l'hanno appeso? No, sì, stava appeso sotto teca. Ma il tuo dopo anche l'hanno appeso? Non lo so, infatti devo tornarci, sì. Ma ha detto di sì che l'avrebbe fatto. Sì, infatti. Vabbè. Comunque dicevo, dopo un po' di prove in cui il gruppo, il quartetto trova la sua quadra, e i Ramones riescono a ottenere un ingaggio al CBGB, il CBGB che nel frattempo che Television con altri gruppi stava cominciando a emergere nella scena proto-punk underground newyorkese, e quindi loro hanno la prima scrittura per il locale, il primo accordo per venerdì 16 e sabato 17 agosto 1974. Sono abbastanza fortunati perché tra il pubblico in quel fine settimana c'è Alan Vega, ne abbiamo parlato prima, ne ha parlato prima Ale, il leader dei Suicide, che li trovò fantastici, si innamorò di lui, come si innamorò di loro, anche Illy Crystal, e mettendo in luce già da ora un feudo che, nonostante i trascorsi, l'amore per il country, il bluegrass e il blues, insomma, non gli mancava affatto. Non furono gli unici a innamorarsi del rock dei Ramones, di una semplicità brutale, erano belli da vedere sul palco, insomma, conquistarono rapidamente sempre più persone. Nelle fila degli innamorati di Ramones spunta anche un certo Lou Reed, un altro nome storico della musica newyorkese, della scena musicale newyorkese. Lui andò a vedere i Ramones al CBGB perché fu molto incuriosito da un nastro che gli fece ascoltare Danny Fields, che dopo Tommy divenne il loro manager, quello che poi gli procurò il primo contratto discografico. E quindi Lou Reed, colpito da questo nastro, va a vedere dal vivo, rimane colpitissimo, torna il giorno dopo con un Sony portatile e registra di fatto un bootleg di questo concerto di Ramones. Dal loro primo album, che uscì per la Sire Records nel 1986, abbiamo scelto di farvi ascoltare Judy Is a Punk, non solo perché la canzone è straordinaria, anche perché ha un legame con il locale. Infatti la canzone è dedicata a due giovanissime fans dei Ramones, Jackie e appunto Judy. Nel ritornello della canzone Joey ripete "Perhaps they will die, oh yeah", probabilmente moriranno. Il testo è abbastanza senza senso, è un gioco, però è quello che purtroppo accadrà davvero. Poco dopo le due ragazze moriranno in un incidente, credo, aereo, ed è questo il motivo per cui qualche anno dopo, nel 1980, in End of Century, i Ramones torneranno a dedicare una canzone alle due. La canzone si chiama The Return of Jackie and Judy, quindi un secondo omaggio, questa volta purtroppo postumo. Noi però ci ascoltiamo la straordinaria Judy Is a Punk in versione dal live, vivo, registrata al live al CBGB, il Ramones, 4 febbraio 1977. I'm gonna dedicate this one to New York Commissioner of the Ramones, Stag Lou. E come avete sentito, l'audio non era la qualità eccezionale, però è un documento storico che abbiamo deciso di privilegiare, è uscito per il 40° anniversario su Live Home, nella versione deluxe. Allora io invece faccio un passo indietro per parlare un attimo del Boveri, il quartiere dove sorge il CBGB, su tanti racconti di tanti ragazzi e ragazze che hanno vissuto quegli anni. Si dice che era anche un quartiere pericoloso da raggiungere, tante volte il taxi si rifiutava di accompagnarle. Negli anni 70 era un quartiere povero, dominato dalle gang, dove prosperavano giri di prostituzione, droga e gioco d'azzardo. Il quartiere era diventato famoso nell'Ottocento, quando avevano cominciato a spuntare le drogherie di fronte alle bettole come Rosetta Parks, aperto nel 1825, e covo dei 40 Thieves, una delle prime bande armate della città di New York, e poco oltre il futuro CBGB, di fianco all'Old Boveri Theater. Dall'altra parte della strada c'era l'Atlantic Garden, che era una birreria simil tedesca con 1000 posti, era rimasta in attività per quasi 50 anni. La birra lì costava 5 centesimi, ma altrove sulla Boveri cominciavano a farla pagare 3. Il trucco era che non usavano i bicchieri, i clienti dovevano succhiare da un tubicino di gomma tutta la birra che riuscivano prima di fermarsi a riprendere fiato. Ma è stata la musica la vera forza del Boveri, con il Five Spot Café, prima un locale fondamentale nel jazz degli anni 50 e 60, era un po' la mecca per Thelonious Monk, e come vedremo poi il CBGB. Il prossimo esordio è risale al 5 maggio del 74, toccò a Debbie Harry fare il suo trionfante ingresso nel locale, avvenne come spalla ai Television con il suo gruppo, che allora si chiamava gli Stilettos, e poi successivamente diventerà Blondie. Chris Stein alla prima chitarra, alla seconda chitarra c'era Ivan Kroll, che lascerà subito il gruppo per unirsi a Patti Smith, e Debbie Harry, lo vedremo tra un attimo, non la prese proprio molto bene. Al basso Fred Smith, che ci ha nominato Fabio, anche lui lascerà presto, e vedremo per chi. E poi alla batteria un certo Bill O'Connor, che lascerà invece del tutto la musica per dedicarsi a una carriera di avvocato. È curioso che Television e Blondie fecero diverse esibizioni nel corso dei primi anni di carriera, anche in altri locali, e non c'era poi una simpatia reciproca, così come non c'era molta simpatia, almeno questo vogliono le cronache, no? Poi vai a sapere se era effettivamente così, tra Debbie Harry e Patti Smith. C'è un aneddoto un po' che coinvolge in pratica tutti i gruppi che abbiamo finora nominato, che si sono esibiti nel locale, e ci fa anche capire qualcosa di come funzionasse poi l'ambiente musicale che ruotava intorno al CBGB. Dunque, la storia è questa: nel gennaio del 75 i Blondie organizzano delle audizioni per sostituire il batterista, e lo faranno nello studio di Tommy Ramone, quello che ci ha raccontato prima Fabio, sulla 23esima strada. Mentre sullo sgabello siede il 21enne del New Jersey Clem Burke, Patti Smith entra in sala. Appena Burke finisce di suonare, Patti Smith gli si avvicina e gli dice: "Ehi, ma niente male, come ti chiami? Perché non vieni a fare un provino con me?" Vi ricordo che Ivan Kroll, il chitarrista, era uscito già qualche settimana prima proprio per andare nel gruppo di Patti Smith. A questo punto Debbie Harry la guarda e il dialogo che segue non è molto radiofonico, quindi ve lo risparmio. Il fatto sta che poco dopo Burke andò effettivamente a fare il provino con Patti Smith, ma non lo superò, e quindi in marzo debuttò dal vivo al CBGB insieme ai Blondie. E quella sera Fred Smith, il bassista, annunciò ai compagni di gruppo che li mollava per entrare nei Television al posto di Richard Hell, stufo anche di piegarsi alle volontà di Tom Verlaine e avviato verso una carriera solista che tra un po' Fabio ci racconterà. Noi ci ascoltiamo dal primo disco dei Blondie, questa è Thin Line. Loro erano i Blondie, questa è sempre una cosa città, vi stiamo raccontando la storia del CBGB che il 10 di dicembre del 1973 ha aperto appunto i battenti. Oh, fino adesso la Mons, Television, ti sei fatto bella vita, eh? Mazzo, bravo. Cioè, peccato che Hendrix era morto, se no te fossi, insomma, avresti fatto pure Hendrix. Vabbè, tu i suoi side, i Blondie, sì, ti abbassi anche un po' il volume in cuffia. E comunque eravamo arrivati, abbiamo nominato un sacco di personaggi, ne avremo altri, andiamo un po' spediti. Siamo arrivati a Richard Hell, ne abbiamo già parlato prima. Richard Hell fa parte della prima formazione di Television, poi gruppo che lascerà perché sono forti le tensioni con Tom Verlaine, insomma prendono strade musicali abbastanza diverse, hanno idee musicali abbastanza diverse. Verlaine diventa rapidamente, per bravura, carisma e per capacità di scrittura, diventa rapidamente il leader del gruppo. Il leader massimo. Diventa il leader del gruppo e Hell non è stanco di seguirlo e si sente penalizzato. I suoi pezzi vengono, secondo lui, secondo quello che racconta lui, e sempre tolti dai set, insomma, ha un ruolo sempre. Io mi sento molto vicino a Ricciardella. Ok, questo ci fa piacere e lo terrò presente. Comunque sia, questi attriti portano poi al fatto che Ricciardella decide di abbandonare il gruppo. L'abbiamo detto prima, al suo posto, e poi registrerà Marky Moon, entra nella formazione di Television come bassista Fred Smith. Fred Smith che viene dai Blondi, viene rubato ai Blondi. E poi anche altri gruppi, poi ci saranno tanti incroci, è una cosa che poi magari non avremo modo di dire, se all'inizio il CBGB è un luogo di incontro tra musicisti e pubblico, e a sua volta nel pubblico sono tante persone che diventeranno a loro volta, scusate, musicisti, più cresce la scena, più diventano importanti le band, più hanno un seguito, più cominciano a pubblicare album, più sale la rivalità tra le, anche magari sana tra le band, insomma, e quindi anche questo continuo scippo di musicisti rientra in questa logica qui. Comunque, diciamo, Ricciardella, dopo aver lasciato i Television, diventa membro, anzi fonda insieme all'ex New York Dolls Johnny Thunders i Gearbreakers. I Breakers non avranno una vita lunga, saranno anche costretti a cambiare nome, perché poi Tom Petty and the Breakers, che tra parentesi suoneranno anche loro al CBGB, il nome era registrato prima, quindi non vogliono beghe legali e cambieranno nome. Abbandonati gli Air Breakers, che di fatto si sciolgono perché tutti i componenti se ne vanno, Ricciardella fonda un altro gruppo più vicino a lui, in cui lui è più chiaramente il leader, che si chiama i The Voidoids. Insomma, questo è il suo percorso musicale. E opinione comune che sia stato proprio lui, Ricciardella, ad adottare per primo il look punk, cioè il look quello che risponde allo stereotipo quantomeno punk, cioè catene, sì, magliette strappate, creste, insomma, e un look in seguito imitato da Malcolm McLaren, che per inciso era rubata. Ricciardella l'aveva visto parecchie volte dal vivo, perché ha avuto un lungo soggiorno negli Stati Uniti, a New York in particolare, ed era un assiduo frequentatore del CBGB, anche se non lo amava affatto. Più avanti negli anni, in un'intervista, disse: non mi piaceva parlare con la gente che lo gestiva, erano un tantino sgarbati, me lo immagino. Sì, poi Malcolm McLaren doveva essere una persona. Sì, erano un tantino sgarbati e fantastico. Comunque, questione estetica a parte, il bassista e cantante statunitense non ha mai davvero raccolto quello che ha seminato lungo la sua intera carriera, ma comunque al di là di tutto resterà nella storia, anche per una canzone, comunque, insomma, una canzone l'ha consegnata la storia, e insieme alla canzone ovviamente è anche consegnata la storia il suo autore. La canzone è Blank Generation, che tradotto significa generazione vuota, una canzone che diventerà di fatto l'inno ufficioso della scena punk newyorkese e dello stesso CBGB. Noi adesso ce ne ascoltiamo una versione, anche questa live al CBGB, registrata al CBGB. Ricciardella, Blank Generation. Gamble when you get a fish. It's time to make new soil with the miracle. live and wrap it in the bacon lot. Richard Dell, Blind Generation, io non riesco a non sentirci All Along the Watchtower di Hendrix, sì, qua. No, ma infatti c'è. È proprio, sta là. Penso che sia abbastanza chiaro. Comunque la nascita del prossimo gruppo in scaletta, i Talking Heads, in qualche modo... Ah, vuoi i Talking Heads, fai tu? Poi vuoi fare tu? Cioè, ma, cioè, senza vergogna proprio. Vai avanti. Ecco, la nascita di Talking Heads è in qualche modo legata ai Ramones e legata al CBGB. Infatti, dopo aver visto il gruppo esibirsi nel locale nel 1974, che Tina Weymouth e il suo ragazzo Chris Franz, entrambi aspiranti pittori, convinsero un altro aspirante pittore, un altro artista, David Byrne, con cui hanno frequentato la Rhode Island School of Design, a formare un gruppo. L'ironia della sorte volle che il loro debutto live sarà il 5 giugno del 1976 proprio al CBGB e proprio come spalla dei Ramones, con cui, nonostante, almeno secondo me, l'enorme distanza nella proposta musicale, diventeranno grandi amici le due band. Musicalmente i Talking Heads sembrano, quantomeno i primi Talking Heads, un incrocio tra i Modern Lovers, che qui purtroppo abbiamo dovuto tagliare. Richman è un'altra figura fondamentale nella scena underground e proto-punk newyorkese. Dicevo, musicalmente i Talking Heads sembrano un incrocio tra i Modern Lovers e i Television, ma aggiungono in maniera abbastanza nitida linee di basso e ritmi che già sembrano in qualche modo alludere alla black music, quindi sono decisamente più lontani dal punk e più contaminati con altre musiche. Le reazioni alle loro esibizioni al CBGB e in altri locali poi ovviamente furono contrastanti. Il loro approccio molto avanguardistico, molto artistoide, e non convinceva tutti. Per esempio, torniamo a citare Alan Vega dei Suicide, per esempio, non li amava affatto perché riteneva David Byrne profondamente finto, non gli sembrava autentico quei suoi tipici gesti nevrotici sia sul palco sia nel ripetere versi in maniera ossessiva, non lo convincevano perché sembrava che stesse recitando una parte, non gli sembrava autentico. Non la pensava invece così il Crystal, il padrone di casa, il proprietario del CBGB, a cui i Talking Heads piacquero parecchio, tant'è che dopo averli visti la prima volta li invitò per tre serate di fila la settimana successiva. Per lui l'accoppiata con i Ramones, quello che dicevo prima, c'era una proposta musicale lontanissima, per lui invece la proposta musicale combaciava perfettamente, nel senso che vedeva Talking Heads come Lean di Manhattan, diciamo così, mentre i Ramones erano Young di Queens, il quartiere di provenienza del quartetto newyorkese. E il fiuto di Crystal, cioè Crystal ancora una volta ha avuto fiuto, tant'è che a neanche due mesi di distanza dal loro debutto nel suo locale i Talking Heads finiranno in copertina di The Voice, una rivista abbastanza importante all'epoca. Noi abbiamo scelto una canzone del loro primo album, come abbiamo fatto per tutti gli artisti, poi abbiamo sempre privilegiato i loro debutti, il loro primo album. Sì, perché copertina. Molto spesso le canzoni sono state eseguite nel locale prima ancora che uscissero ovviamente gli album, no? Copertina rossa, l'album si chiama Talking Heads 77, la canzone che abbiamo scelto è Don't Worry About Government. I see the Io do un trillino, la facciamo ripartire Tolkienez e dai, va. Tolkienez hanno delle cose città sopra di Onda Rossa. Allora noi ci avviamo alla fine degli anni 70, Ramones, Blondie e Patti Smith, che non abbiamo ancora passato, che tornerà un pochino più avanti. A un certo punto smettono di suonare nel locale perché sono ormai decollati verso il successo, e quindi il CBGB avranno firmato tutti questi gruppi ormai con delle grandi case discografiche, e quindi il CBGB deve necessariamente reinventarsi, e qui entra in scena un personaggio che sarà fondamentale in questa sorta di rinascimento del locale nei primi anni 80, e ancora più in grande sarà fondamentale per lo sviluppo di tutto il movimento hardcore e straight edge newyorkese. Parliamo di Don Fury, un ingegnere del suono e produttore. Gruppi come Agnostic Front, Sick of It All, Underground, Youth of Today e Gorilla Biscuits, insomma un po' tutti andavano da lui e chiedendo di essere registrati, e poi con le loro cassettine insomma andavano in giro per locali e negozi per farsi conoscere e proponendosi per suonare. La svolta arriva quando Don Fury, all'epoca fidanzato con Carol Costa, una ragazza che faceva la cameriera al CBGB, propose a Illy Crystal di organizzare dei matinée la domenica all'ora di pranzo per le band. Perché matinée? Perché l'età del pubblico, e a volte anche dei musicisti, partiva dai 12 anni, e tantissimi ragazzi e ragazze, c'era una fascia molto ampia che aveva tra i 14 e i 16 anni. Adesso, per qualche motivo che mi è del tutto oscuro, però il regolamento del CBGB prevedeva che l'ingresso fosse riservato agli over 16, e quindi per risolvere il problema si andava a Times Square, angolo con la 42esima, dove sotto una specie di galleria, un sottopassaggio credo, insieme a prostitute e spacciatori, con $10 si poteva far fare una foto da qualcuno che dava un foglio appiccicava questa foto sul foglio e ci scriveva che Pinco Pallino aveva più di 16 anni. Naturalmente sto foglio, adesso il mio dubbio è perché andavano con tanto sottopassaggio, perché non lo facevano a casa? Questo non lo so, era un servizio del sottopassaggio. Quello che non capisco è che ce fai con un foglio che c'è scritto che hai più di 16 anni. Ma però la certificazione aveva soltanto ovviamente valore per entrare al CBGB. E quindi la domenica mattina, per 4-5 isolati, una fila di ragazzi e ragazze invadeva le strade di Boveri aspettando l'apertura prevista intorno alle 13.30. Ma la pure lista... questa cosa, scusa, no? Quanti, la fila di quanti isolati? 4-5. Ma dove li mettevano queste persone? Perché il locale in coda, c'era una capienza, in coda. La capienza quella, sì, veniva... era da 150 persone, sì. Poi lui stipava, arrivava a 500, vabbè. Sì, vabbè, era una cosa allucinante. Comunque faceva la lista turni delle band che avrebbero suonato la domenica veniva stampata sull'edizione del mercoledì del Village Voice, una rivista che ora non esiste più, e il programma prevedeva solitamente 4 band. La prima era un esordiente, la seconda una che già si era esibita, la terza era un gruppo più che promettente e l'ultima era il grande nome della giornata. Ma poco importa, alla fine chi suonasse al matinè si andava per incontrare amici, per stare insieme, per distribuire soprattutto i flower e promuovere la propria band. E quello che succedeva fuori fu quindi molto importante, anche tanto quanto quello che succedeva all'interno del locale. Quando si apriva la porta alle 13.30 il locale era già illuminato e tutti ricordano l'incredibile caldo, si stava ammassati l'uno sull'altro e poi tra una band e l'altra l'esodo all'esterno per riprendere aria e di nuovo giù verso il gruppo successivo. Uno dei gruppi seminali del genere che abbiamo deciso di ascoltare, che spesso si esibiva al CBGB, erano gli Agnostic Front. Questo è un loro live proprio lì. Sono rilassatevi, 2 minuti circa, allacciate per favore le cinture di sicurezza. Riot Upstairs, Agnostic Front. Vabbè raga, il trillino sugli Agnostic Front lo voglio bene a tutti. Pensa che ci doveva stare quella sera sto concerto, fa. È piaciuto Agnostic Front, grazie a tutti quelli che ci hanno chiamato in questo minuto e mezzo. Allora andiamo avanti. Aspetta che abbasso. Dunque, uno dei problemi però che assillava i matinè del CBGB erano le risse. All'interno del locale, durante i concerti, spesso era anche difficile accorgersene finché il cantante non interrompeva lo show invitando alla calma, ma anche e soprattutto all'interno del locale, risse che spesso si prolungavano fino al Tompkins Park, all'epoca uno dei luoghi di spaccio e prostituzione del quartiere, dove sorgevano anche al centro di questo parco le tende e i ripari di fortuna dei tanti e tante senza tetto della zona, e luogo di ritrovo per skin punk anarchici e frequentatori del CBGB. È un periodo di cambiamenti per New York, la gentrificazione era già iniziata in tanti quartieri della città, e così nel 1988 la città decise di dichiarare il coprifuoco nel parco, chiudendolo a mezzanotte. Fu la prima volta a New York City che succedeva una cosa del genere, e col senno di poi fu anche la prova generale per la borghesizzazione del quartiere. Alla mezzanotte, ricordiamo sempre che il quartiere, stiamo dentro Manhattan, quindi... Sì, siamo all'interno di Manhattan, esatto. Alla mezzanotte tra il 6 e il 7 agosto 88. Sì, non mi ricordavo l'anno. Quando la polizia chiuse i cancelli del parco, ragazzi e ragazze scavalcarono per entrare. I poliziotti attaccarono indiscriminatamente i passanti, fecero arresti, picchiarono chiunque capitasse sotto tiro. Iniziarono sassaiole, lance di bottiglie, 450 poliziotti, elicotteri, più altre agenti a cavallo. Queste erano le forze schierate dalla polizia, perse a un certo punto completamente il controllo della situazione, scatenando appunto i disordini di quella terribile notte, causando moltissimi feriti tra la popolazione. Questa è l'anno zero per il quartiere, che inizierà a cambiare radicalmente. Di lì a poco aprirono bar, catene di negozi, iniziò una speculazione edilizia, anche col conseguente aumento degli affitti e la sparizione di piccole attività a gestione familiare. Tutto questo, lo vedremo, avrà anche delle conseguenze sul CBGB. Noi ci ascoltiamo un altro gruppo, sempre di quella scena, almeno che inizialmente faceva parte di quella scena newyorkese di quegli anni. Sono i Beastie Boys, anche in relazione del ponte che crearono quella nascente scena hip hop che vedeva proprio a New York in quegli anni il suo epicentro. Questa registrazione non è live al CBGB, ma è tratta da un live radiofonico di una trasmissione intitolata Noise to the Show, dedicata comunque alla scena hardcore. La stessa scaletta fu ripresa comunque in uno spettacolo al CBGB. È un minuto e mezzo, anche qui a riallacciatevi le cinture. Eccola qua, Beastie Boys. Io ringrazio chi ci ha chiamato, ci aveva fatto una richiesta per i Gorilla Biscuits, non facciamo in tempo a metterli, altrimenti l'avremmo passati volentieri in una prossima puntata, promesso. Noi ci abbiamo insomma alla fine della nostra puntata, cioè, più che altro verso gli anni del declino del CBGB, entriamo negli anni 90-2000. A proposito, vi consiglio, se per tutta questa fase che vi abbiamo raccontato sui matinée, la visione di un bellissimo film documentario che inquadra perfettamente questi anni e le storie di questi gruppi. Si chiama At the Matinée ed è regista Gian Giacomo De Stefano. Credo che tra qualche mese forse riuscirà anche a passare in un canale satellitare. Fino adesso ci sono state soltanto delle piccole proiezioni in diverse città, anche a Roma qualche mese fa, purtroppo io non sono riuscito a vederlo, l'ho visto in altre insomma in un'altra maniera. Comunque entriamo negli anni 90-2000, abbiamo detto il quartiere sta cambiando che prima Crystal, grazie all'affitto modesto, poteva permettersi di mantenere i prezzi d'ingresso bassi, di vendere birra a prezzi contenuti, ora invece si ritrova a non riuscire più a far fronte alle spese. Il locale entra in crisi, la violenza dentro e soprattutto fuori non è più tollerata dalle autorità, e quindi anche i gestori del locale devono farne i conti. E quindi Crystal, evidentemente anche stanco, decide di interrompere i matinée. Dalla fine degli anni Ottanta fino alla chiusura del CBGB ha cercato di mantenersi in vita, soprattutto come birreria. Il proprietario, che cercò anche di fare una compilation a un certo punto che contenesse le esibizioni dei gruppi più importanti che si esibirono fin dal 1973, ma a causa delle firme di questi artisti con le grandi etichette discografiche, Ramone, Television, Patti Smith, Blondie, Talking Heads, tutti questi gruppi non entrarono all'interno della compilation, e quindi il progetto fu un flop che gli costò anche diversi soldi. Continuarono comunque i concerti, i gruppi famosi che diventeranno insomma tali, i Police, i Guns N' Roses, i Green Day, ci fu Nick Cave, ci fu anche PJ Harvey, vabbè, insomma, un sacco di gente. E noi ne abbiamo scelti due che temporalmente aprono e chiudono questo periodo. Il primo si esibì proprio pochi giorni prima dei disordini di Tompkins, no? Sì, il primo gruppo, diciamo, che apre questa stagione che abbiamo appena descritto, una stagione comunque di forte declino in cui il locale in ogni caso ha perso la sua centralità, e il primo gruppo appunto non ha bisogno di un granché di essere presentato, sono i Sonic Youth, e l'abbiamo scelto di inserirli in questa scaletta non soltanto perché il loro primo concerto al CBGB precede di poco gli scontri di cui ha parlato Ale poco fa, ma anche tra parentesi in quel concerto loro presentarono in anteprima un disco monumentale che uscirà soltanto 4 mesi dopo. Il disco è Daydream Nation. Abbiamo scelto i Sonic Youth anche perché uno dei componenti della band, Tarsus Moore, era uno dei ragazzi che frequentava i matinee, che frequentava il locale, era un assiduo frequentatore. Lui dice: dal 76 all'80 ogni volta che potevo me ne andavo lì. Ha raccontato spesso di quanto fu per lui importante assistere, era una domenica di Pasqua del 76, il 10 aprile se non vado errato, a un evento organizzato da Patti Smith nel locale, in cui oltre a Patti Smith c'erano anche i Dead Boys, una punk band di Cleveland, e gli inglesi Damned. E insomma, il legame tra Sonic Youth e CBGB non si limita soltanto al concerto dell'estate del 1988, e tra parenti di loro non si limitarono soltanto a quelle esibizioni, ma durante la loro carriera, fin quando il locale sarà in piedi, torneranno anche altre volte a esibirsi lì, probabilmente più per una per volontà di carattere proprio sentimentale, diciamo così, perché poi il locale diventerà, lo racconterà Ale tra poco, di fatto diventerà un pub, una birreria e poco più. Noi dal 7 di quella sera d'estate del 1988 non potevamo che scegliere la canzone, una delle canzoni più belle dell'intera carriera di Sonic Youth, e forse la più adatta alla scaletta che abbiamo scelto oggi. Sonic Youth, Teenage Riot, in un bootleg che non si sa come l'ho preso, un bootleg registrato appunto al CBGB, la qualità non è proprio eccezionale, ma però è un documento importante. Sonic Youth, Teenage Riot. little pumpkin stays. She's gonna pack it up in a hundred days. The time to see them, make believe it has been. It's not clear what you make the way. Cute. Allora noi ci avviamo. Ma pensa verso... a quei fortunati che per la prima volta hanno sentito Teenage Riot e tutto dei Teen Nation dal vivo al CBGB. E se appunto stiamo andando verso la fine della trasmissione, quindi inevitabilmente anche verso la fine del locale, abbiamo detto ormai siamo arrivati negli anni 2000, il locale ormai è pressoché semplicemente un pub dove comunque a volte si tengono anche questi concerti anche importanti come quello del secondo artista che abbiamo scelto, del secondo gruppo, per un po' per concludere questa eredità, no, musicale newyorkese. Parliamo degli Strokes. E quando Nick Valens, il chitarrista degli Strokes, chiesero un commento sulle voci che volevano imminente la chiusura del CBGB, siamo ai primi anni 2000, disse: sai, non credo che verrà realmente chiuso, credo che alla fine si salverà. E dice: forse dovrebbero trasformarlo in un museo, in un'attrazione per turisti. In fondo è quello che è, un pezzo di storia del punk, la Disney World del punk. Valenzi però un sassolino nella scarpa vuole toglierselo e aggiunge: onestamente non capisco perché abbiano tante difficoltà a pagare l'affitto, non c'è un biglietto d'ingresso, probabilmente stanno continuando a fare degli errori nella gestione. Ma sai qual è il punto? Che 30 anni fa il CBGB era il posto più cool del mondo, il posto in cui nasceva la nuova musica. Ormai sono anni che ha rinunciato alla sua missione. So che qualcuno mi odierà perché dico questo, e ok, ma c'è una ragione personale. Quando gli Strokes erano agli esordi, i gestori del locale sono stati davvero stronzi con noi e ci hanno trattato dall'alto in basso, tipo: ma che vogliono sti ragazzini? Se non stai attento a quello che di nuovo succede nella tua città, vuol dire che non sei degno di gestire un marchio storico come quello del CBGB. Se mi dispiace che scompaia un luogo leggendario come questo, ma per come era gestito negli ultimi anni, può tranquillamente andare a fanculo. Vabbè, la tocca piano. Giri di parole molto... Sì, ho usato una metafora sottile per chi l'ha colta. Last Night Strokes. Last night, Last Night, The Strokes. Ma io pensavo gli Strokes non ci avranno avuto a che fare con Crystal. No, evidentemente se lui dice qualche così, altro direttore artistico, qualcuno più però giovane. Lui comunque c'era sempre, perché come vedremo e come ci racconterai un attimo, poi ti è piaciuto però sì, come un po' troppo duro come tutte le più belle cose, Fabio, a un certo punto. Eh sì, a un certo punto finiscono, infatti siamo arrivati alla fine di questa puntata e il CBGB che dal 10 dicembre del 1973, giorno in cui aprì, o meglio era aperto già dal 69 ma aprì come CBGB, e arriva il 16 ottobre 2006 che è il giorno in cui il locale ufficialmente chiude i battenti. Ci torneremo tra poco, e chiude i battenti e troveremo un personaggio che insomma l'abbiamo nominato più volte ma ancora non l'abbiamo ascoltato. È sempre stata lì ad ascoltarci. Aleggiava, sì. Comunque, oggi se andate al 315 di Bowery Street non è che trovate un buco nero, cioè fisicamente il posto esiste ancora, purtroppo, diciamo così, dal 2007, quindi dall'anno successivo, il CBGB è diventata, la location originale del CBGB è diventata una boutique. Sì, fa ridere tantissimo sta cosa, una boutique che poi tra l'altro ha mantenuto alcune parti del locale, tra cui il bagno, che era un po' il posto che l'ha reso sì, perché celebre. Chi l'ha fatto, cioè chi l'ha, non hanno fatto le cose a cavolo, evidentemente anche New York, insomma gli appassionati, la comunità che in qualche modo è cresciuta vicino al CBGB, insieme al CBGB, certamente sarà stata con gli occhi attenti, con gli occhi addosso. Quindi il progetto è stato, chi ha curato i lavori, diciamo così, è un tizio che si chiama, magari è famosissimo, non lo so, John Varvatos. Ah, John Varvatos è stato? Sì. Ah, non lo sapevo, cavolo. Infatti lo sapevo che tu eri un appassionato. Io vesto solo John Varvatos, Carcola. No, che è un architetto? No, poi io l'ho trovato come uno stilista di scuola estetica punk. Sì, infatti quello dicevo. Però stilista non è una boutique, in effetti. No, ti vedi un po' stilista, un po' avvocato. Sarà un Malcolm un po' McLaren dei Noantri, comunque. Non lo so, comunque lui, battuta a parte, certamente anche perché era un valore aggiunto della boutique, ha mantenuto tanti pezzi del locale così com'erano, per esempio ha mantenuto la vernice nera, ha fissato dei pannelli di plexiglass sopra alcune sezioni delle pareti, quelle coperte di adesivi e graffiti come tutte le mura del locale poi di fatto erano. Ogni tanto sembra che io non ci sono mai stato, però ho letto che sposta gli scaffali, cioè rende possibile nella boutique esibizioni live, e quindi tra gli altri nomi importanti hanno suonato nel locale Johansen e Sylvain, che sono gli unici superstiti dei mitici New York Doll. E a quanto pare se uno va e chiede di poter entrare e visitare insomma il posto, te lo fanno vedere. E poi tra l'altro la cosa che mi fa sempre un po' sorridere è quella che Alan Parker, per esempio, il grande regista, lo descrive così, quindi pensando che oggi ci sia una boutique è ancora più particolare la cosa. Dice: scarafaggi e immondizie erano di casa, per quelli che non hanno visitato il posto pensate al bagno di casa vostra, ma solo un po' più grande, coperto di graffiti e con puzza di piscio praticamente ovunque, per il fatto che il proprietario, Illy Christas, lasciava i suoi cani liberi di scorazzare nel locale, una cosa che il compianto Joey Ramone trovava spassosa. Noi non sappiamo se, perché non ho trovato la data, non so quando ha aperto nel 2007, ma non so quando ha aperto la boutique. Non sappiamo se Illy Crystal, il proprietario o il fondatore del CBGB, ha poi visto quello che è diventato il suo locale, perché lui non sopravviverà a lungo alla chiusura, morirà infatti a 75 anni il 28 agosto del 2007. Poi al di là della boutique altri pezzi del CBGB sono letteralmente sparsi nella città. Per un certo periodo di tempo, finché non ha chiuso tutti i reperti, diciamo, del locale erano ospitati dal Rock and Roll Hall of Fame Museum Annex. E tra questi reperti, tra questi oggetti che testimoniavano gli anni d'oro che furono, c'era una tenda bianca, a quanto dicono sudicia, la cabina telefonica, e c'era anche uno degli ordinatori che era appeso fuori il bagno dell'annex del museo. Insomma, il museo, dicevo, ha chiuso nel 2010, è legato al museo, quello di Cleveland, quello dove poi si tiene la cerimonia del Rock and Roll Hall of Fame. Quindi adesso non so bene, comunque New York in qualche modo conserva la memoria di questo glorioso locale. Dicevamo, il giorno in cui ha chiuso, e andiamo anche noi a chiudere la puntata, e c'è una data precisa, il 16 ottobre 2006. Per quella serata la proprietà ha pensato a fare le cose in grande, non c'è riuscita perché a quanto sembra non tutti hanno risposto positivamente all'invito. Sì, infatti, hanno partecipato i Blondi, e certamente ha partecipato la regina del punk rock, quella che abbiamo nominato ma non ha ancora ascoltato, cioè Patti Smith, il Patti Smith Group che ha chiuso, proprio abbassato le serrande, diciamo, quantomeno in senso metaforico. Anche la scaletta di Patti Smith e del suo gruppo ha voluto in qualche modo ripercorrere tutti gli anni che abbiamo provato a raccontare qui oggi su Radio Onda Rossa. La scaletta ha aperto con Peace Factory, poi ha seguito alcune cover, tutte cover ovviamente a tema, quindi Pale Blue Eyes dei Velvet Underground, Marky Moon dei Television, e sul palco è inserito Richard Lloyd, uno dei due chitarristi dei Television. Poi ha suonato The Tide Is High dei Paragons, che però era una canzone che di fatto è diventata parte del repertorio dei Blondi. Qui immagino che anche ci sia stata una continuazione tra gruppi, pace. Immagino. Beh, dai, penso di dopo tanto tempo. Sì, dai. Poi questo lo trovate su YouTube. Patti Smith ha fatto il medley del gruppo, e certamente avrebbe accettato l'invito, ma che purtroppo non esiste più perché tutti i suoi componenti sono morti, cioè i Ramones. Quindi Patti Smith ha fatto un medley di tante belle, tante grandissime canzoni dei Ramones, ha fatto My Generation di U, che dire, che cavolo c'entra con CBGB? C'entra perché è una canzone che lei fa sempre dal vivo, ed è una canzone che in qualche modo le generazioni che passano, insomma, in qualche modo c'entrava nella scaletta. Comunque era lei che decideva, fare. C'è ragione. Comunque tutto questo per dire che l'ultima canzone della scaletta del Patti Smith Group, l'ultima canzone ad essere suonata nel CBGB, è Elegy, la canzone di Patti Smith che chiude Horses, una canzone meravigliosa, non c'ha bisogno di nessuna presentazione, noi ce l'ascoltiamo dal vivo, non al CBGB, purtroppo non abbiamo trovato un file di qualità degna per farvelo ascoltare. Però ce l'ascoltiamo da questo live uscito per il Deluxe di Horses. Noi ci sentiamo martedì prossimo facciamo puntata. Il giochetto, no? Facciamo il giochetto che fanno tutti i nerd appassionati di musica, cioè facciamo la classifica delle migliori uscite del 2019. Mi sembra abbiamo detto tutto. Un grazie a tutti e a tutti, speriamo che avete passato un'oretta e mezza e passa. Patti Smith, piacevole.